onda Piazza Alta, un programma di e con Marsi e Enzino, alla regia e parte tecnica Simone. Giovedì 11 dicembre, simpatici amici, 2014. Benvenuti a Piazza Alta. Ancora per poco, cioè 2014 ancora fino per al 2076. dillo te. Sulle magiche frequenze di Radio F, dal 1976. Aspettavano tutti questo pipipipio. Effetti speciali e colori ultravivaci. Questa era una Dolby Surround. Potevamo stupirvi con effetti speciali. Abbiamo finito, Marci? Sì. Ok, allora andiamo con il primo brano. Questa è Piazza Alta. Iniziamo una puntata straordinaria. Meravigliosa. Aria. Could be wrong. Rise dei Public Public Image Limited. Guarda, è un'ora che meraviglioso, ci pensa, caro mio Marti, che questo è un album del 1986 e era uno dei più calmi, mi sembra, di quelli un pochino più degli ex cantante leader dei Sex Pistols, tra l'altro, ecco, infatti mi sembrava che fosse ambientato. Benvenuti a Piazza Alta. Allora, intanto ringraziamo gli amici che ci hanno preceduto, Paolo e Maria, e che tutte le volte ci fanno una grande presentazione, grande pubblicità, noi, grande promo, e noi li ringraziamo, chiaramente, questo palinsesto che si sta riempiendo di grossi, arricchendo in maniera inverosimile. Oh, ecco, ma chi siamo? È un piacere noi? Ascoltarci. E zitti. Allora, questa è Piazza Alta, caro il mio Marzi. Sì. E siamo rivolti a un pubblico indistinto, direi. Non è che è il curriculum. È giovedì, come dicevamo. Beh, come ci possono sapete ascoltare? Oh, iniziamo radio ascoltatori e affezionati amici. Questa è Piazza Alta, questa è Radio F. Ci potete ascoltare in tre modi specifici. Che sono? Quello tradizionale con le frequenze in modulazione di frequenza 101.2. Sì. In streaming su www.radiof.it. Ok. O scaricando addirittura, senti dove siamo arrivati, l'app sia per Apple che per Android. Però. Ma non solo, se stasera avete da fare non potete, se stasera sono qui è perché ti voglio bene, ma a parte questo, se non sapete come fare, domani pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook il podcast, che pare che sia una delle più visitate, ecco. Dai, il mio analista per esempio ma dopo che ha e via. Bravo, così mi piace. Ma stasera di che cosa parliamo? Stasera è una puntata rivolta ai giovani. L'abbiamo sfiorata varie volte nelle nostre precedenti trasmissioni, ma stasera parliamo di giovani. Di giovani. Ma giovani, ma quando erano quando giovani? Sempre. Negli anni 80 all'anagrafe, ma dentro anche ora. Parliamo insieme a Roberto Menchetti, che è qui con noi. Buonasera, ciao Roberto. Buonasera a tutti. Parliamo di che cosa, Marci? Del GRAS, che non è una locuzione, che è uno storpio che sto cercando di fare io, ma è Giovani Riuniti per l'Ambiente, l'Arte e lo Spettacolo. Un acronimo, vedi che bellissimo. Bellissimo. E erano gli anni 80, fine anni 80, Roberto. Parliamo del 1987. 87. 88. 89. Le statistiche ci riportano questo. E avremo anche molti documenti che Roberto ci ha portato, che voi potrete molti vedere. Molti aneddoti, e io sono molto curioso, Enzo, perché come vedi nelle nostre puntate stanno venendo fuori che periodicamente Foiano è sempre stata viva, i giovani hanno sempre dato degli impulsi importanti e il GRAS è proprio uno di questi. Guarda Simone, io sono che salutiamo, a questo punto Simone che salutiamo. Ciao. Metti un brano perché probabilmente un intervento così non, ecco, lo rifarà per una mezz'ora. Taccio. Yeah. questa era la nuova proposta musicale italiana che ogni settimana Simone ci presenta. Erano i Kairobi con Zoraide, che è un nuovo progetto italo-britannico, caro il mio Marzi, tu che sei stato a Londra da non troppo tempo. Obvious. Che ovviamente che viene presentato dagli ex componenti dei Vado in Messico. Mi diceva Simone, Vado al massimo, vado a gonfie vele. Che si chiamavano Vado in Messico, a un certo punto si sono stufati, ora si chiamano in un altro modo, ma sono sempre loro. Sì, ma sono scesi un po' più giù sui sempre sui Caraibi, ma più o meno la zona è quella. Allora, vediamo un po' se questa volta riusciamo a iniziare a parlare, ma ho i miei dubbi. Allora, questa sera, come anticipato, parliamo con Roberto Menchetti, che risalutiamo per l'ultima volta, poi dopo non ti presento più. Buonasera. Parliamo di un'associazione che lui ha fondato insieme ad altri ragazzi dell'epoca e che aveva una fervente attività artistica. Ricordaci come si chiamava questa associazione, Roberto. L'associazione era Il Grass. Ah, attenzione, attenzione! Non ce la faremo mai. Grass, giovani riuniti, ambiente arte e spettacolo, intraprendenti e coinvolti da sempre, un'icona dei nostri tempi. Grass, loro le scorribande e le serate ai giardini, i veglioni a Garibaldi. Grass, un acronimo o una definizione di obesità. Grass, un neologismo o qualcosa di inglese da incartare e accendere. Grass, i dubbi e le certezze, le voglie e le potenzialità di una generazione di giovani foianesi. Stasera a Piazza Alta. But you've always tried. i Depeche Mode con The Sinner Is Me, un album, l'undicesimo album in studio dei Depeche Mode, e questa era la traccia 4 e era del 2. Niente, andiamo avanti. Ecco, ma ho questo sbagliato. Diciamo non incide più. Volevo dire l'anno, ma ho sbagliato a leggere, quindi facciamo finta di niente. Roberto, finalmente è venuto il tuo momento. Roberto Menchetti in studio per parlare di Grass, ma dobbiamo dire, perché magari qualcuno non ti conosce, no, con questo nome. Detto Nannicchio. Al secolo Nannicchio. Dunque, tu sei stato uno dei promotori, dei fondatori del Grass, un'associazione che, come abbiamo detto, negli anni 80, fine anni 80, ha percorso le, diciamo, e rallegrato e coinvolto Foiano in alcune, in diverse attività. Dacci subito uno spaccato del periodo e di quello che facevate. Cioè, soprattutto a chi è venuto in mente di farlo, perché e come siete nati. Insomma, lo dicevi prima, Foiano è sempre stata la patria dell'associazionismo, è sempre stata questa volontà di nelle varie epoche, nei vari momenti di ritrovarsi assieme, di inventare qualcosa. E anche noi, quella generazione che si ritrovava per il viale, presa un po' dalla noia, a un certo punto ha voluto mettersi in discussione per fare qualcosa che poteva servire non solo a dire che non c'era niente da fare, che no, il paese non offriva, ma che insomma ci si metteva in gioco per offrire noi qualcosa. La fortuna è stata in quegli anni che c'era un assessore alla cultura lungimirante, si parla del 1987, quindi del mandato dal 85 al 90, e chi molti se lo ricorda, insomma, se lo ricorderanno oppure si avranno sentito questo nome, Michele, certo. Di Trani era l'assessore alla cultura, non solo per la palestra intitolata, ma e nemmeno per il premio di Trani, che per molti anni nel periodo carnevalesco è stato, come assegnato, dire, assegnato sì. Nel periodo proprio appunto di carnevale al Teatro Garibaldi. Ma era una persona che aveva capito che Foiano poteva esprimere delle potenzialità e, come dire, si è buttato sul darci dello spazio e si è preso questa responsabilità e ha corso questo rischio, perché insomma un gruppo di ragazzi, di giovani, che all'epoca poco più che ventenni, insomma, dare uno spazio di questo tipo, insomma, da amministratore comunque, certo. E quindi poteva avere un risvolto negativo, poteva essere un rischio. E la cosa è andata, insomma. Quanti eravate proprio all'inizio, i fondatori veri, quelli, il gruppo? Il gruppo, diciamo, quello storico, proprio quello, l'idea è venuta da, insomma, 4-5 persone insieme a lui, ma poi subito si è espansa, insomma, la partecipazione, subito siamo arrivati a qualche centinaio di tesserati, perché l'associazione poi questo era, e quindi cercava di coinvolgere, e appunto il tutto sfociò nella prima festa Grass, che si svolse al Giardino d'Estate dal 1 al 6 settembre del 1987. Sì, ecco, forse una delle cose più difficili è stato trovargli il nome. Beh, anche lì, insomma, ci sono state alcune serate di discussione, poi diciamo, insomma, da una parte voleva essere una piccola provocazione, ma allo stesso tempo, però, insomma, invece era riempita di contenuti, perché insomma le cose, le finalità per cui noi stavamo insieme erano l'arte, l'ambiente, lo spettacolo, quindi insomma poi alla fine ecco che è venuto fuori Giovani Riuniti, ambiente, arte e spettacolo. Tutti contenti qui. tra l'altro ora stiamo già pubblicando sulla pagina Facebook anche il programma della prima festa, e che appunto, proprio come anche dall'acronimo, non riguarda solo la musica, ma anzi affrontavate anche dei temi molto importanti. Mi ricordo, vado un po', scusa Marcello, se mi passi, vediamo un po' se mi ricordo. Ecco, sì, insomma, ci sono degli argomenti che magari non nella prima ma nella seconda. Mi ricordo, insomma, c'era anche qualcosa, una serata su cui parlavate dell'AIDS. Giusto? Sì, no, i temi erano sicuramente di attualità per quelle, insomma, gli AIDS non è che a quella sì, no, quel momento parlasse lì era molto, insomma, sì, esatto. Sì, era un modo per appunto per parlarne e per come dire, discutere del problema, insomma, e quindi c'era, insomma, allora la parte cattolica, insomma, che, cioè, voglio dire, che... No, poi c'è anche scherzava. C'è anche degli argomenti che a tutt'oggi non hanno trovato una soluzione o un filone conduttore a distanza di più di 20-30 anni. Cosa hai letto? Fantascienza al femminile, mi sembra un problema che cioè, l'avete affrontato giovedì 3 settembre del 1987 e penso che ancora oggi non abbiamo trovato una soluzione. Cioè, è un dibattito, penso, aperto questo, soprattutto tuo interiore, guarda, sì, Marzi. Certamente. Allora, io farei così, Simone: su ogni battuta eclatante di Marcello mettiamo un disco, così poi riflettiamo su quello, ecco, che ha detto. Per esempio, sul mercoledì 2 la bassa pressione è un altro problema di attualità. Little Dragon dei, anzi, questi erano Little Dragon, questa era Looking Glass del 2009, è il secondo disco degli svedesi, appunto, formatisi a Göteborg nel 96. Ecco, io di svedesi conoscevo fino a oggi Borg, Wilander e l'immenso Stefan Edberg, ma certo, questo denota un po' la... Vedi che la radio ti apre veramente la mente. Sempre con Roberto Menchetti, detto Nannicchio a parlare del Grass. Del Grass. Io casualmente mi è capitato sotto, capitato mano. Sotto mano il numero zero di una rivista, di una, di una rassegna stampa che si chiama Grass 89, in cui si parla, ci sono delle cose anche molto interessanti, di come la stampa nazionale, proprio a livello nazionale, ha riportato queste iniziative che in quegli anni i nostri amici del Grass avevano fatto a Foiano. E però inizia questo libretto con con un passaggio che mi piacerebbe sintesi, riportare. Esatto. La storia è vecchia come il mondo e questa volta si è ripetuta sulla riva occidentale di un noto fiume europeo, il canale maestro della Chiana. Bellissimo. Proviamo a raccontarvela. Un gruppo di giovani scopre un bel giorno che il tempo libero poco dal lavoro e delle altre incombenze in realtà viene vissuto individualmente in maniera monotona, stanca e insoddisfacente. Il bar come centro culturale e ricreativo, la discoteca, le birrerie. In pratica sesso, poco ai noi, droga, punta, e rock and roll. E tutto il resto? Ecco, qui parte quest'idea. Io me ero immaginato, va pensa, oltre i confini, già il canale maestro della come Chiana. Come il Danubio, io bravo, come bravo. Il Danubio. Roberto, era veramente così, cioè si parte da Foiano attraverso il canale maestro, tramite il canale maestro della Chiana e si va in Europa, nel mondo, nell'universo? Fermati. Ecco. Beh, insomma, sì, insomma, non si andava in Europa, però coi mezzi di allora, come dire, la risonanza che ha avuto soprattutto che hanno avuto le stagioni estive, quindi le feste, che poi insomma sostanzialmente l'evento principale dell'anno era la festa che veniva in estate al Giardino. E devo dire che in quegli anni avevamo sviluppato rapporti con altre associazioni culturali attinenti ai nostri temi, quelli insomma della musica, dell'arte, della cultura. Quindi avevamo rapporti con Firenze, con Stress, con Arezzo, con alcuni circoli arci, che appunto circuitavamo anche delle iniziative, delle serate teatrali o musicali o di altro, appunto all'interno di tutto di un percorso che stava prendendo campo. Insomma, la stessa Arezzo Wave, roba di quegli anni, insomma, c'era fermento, la gente era quella, era un momento, insomma, di fermento. Sì, sì, sì. Quindi il vostro teatro naturale erano, se ho capito bene, i Giardini d'Estate. Sì, Giardini d'Estate, la piazza della collegia, il sacrato della chiesa per certe attività culturali, di concerti fuori. E il Garibaldi. E il teatro Garibaldi, poi nella stagione invernale, dove, come dire, si era anche lì sviluppato questo rapporto con l'allora Comitato del Carnevale, in cui noi partecipavamo, insomma, alle iniziative. E poi era venuto fuori il giovedì. Avevamo ripristinato il Giovedì Grasso, che era una festa che non veniva più fatta da anni, e venne fuori il Giovedì Grass, appunto, al Teatro Garibaldi, che era questa festa in maschera dove insomma in tanti si parla, anche lì però con molta attenzione agli allestimenti, perché noi, ecco, ridisegnavamo tutte le scenografie, insomma, per una serata. C'era questa parte di amici che si dedicavano a questo aspetto, quello dell'immagine, che veramente si facevano delle cose, ecco, molto molto molto belle, insomma, ecco, dal punto io di tra vista poco tra l'altro pubblicheremo anche una foto tua, Roberto, lì proprio al Garibaldi per il Giovedì Grass, perché viene bella, perché c'è dietro la scritta, fra un po' la troverete su Facebook. E da lì capiamo il fatto, l'attenzione al design, alla bellezza, sì, soprattutto di Roberto. Di Roberto. E io mi accorgo, perché Roberto ha portato molto materiale che effettivamente ne potremmo parlare per ore, potrei fare confusione, quindi cerco di dare un po' di ordine. Per esempio, non il logo, ma la maglietta che è diventata il simbolo del Grass è stata disegnata a una storia da una, sì, persona importante. Ci vuoi raccontare dove siete arrivati, come ci siete arrivati e chi ve l'ha disegnata? Ma beh, soprattutto come avete fatto a tornare. Beh, sì, anche lì ci sarebbe da raccontare il ritorno, perché eravamo con una, cioè, vabbè, tornavamo da sta festa di tango, questo festival di tango. Vabbè, parto da lì. Sì, allora, vai. La maglietta, che poi è stata quella che ha consentito di, come dire, introitare come dire, denaro fresco, perché la maglietta è stata la prima fonte di finanziamento, perché le magliette le vendevamo e quindi ci si si poteva iniziare, come dire, la festa. Ma la storia della maglietta, appunto, sempre con Michele Di Trani, all'epoca usciva assieme all'Unità un inserto che si chiamava Tango. Sì. Tango era un giornale satirico diretto da Sergio Staino ed altri grafici ed altri vignettisti dell'epoca, e appunto era un giornale satirico, e a Montecchio Emilia, che era in provincia di Reggio Emilia, appunto, veniva fatto il Festival di Tango, che era tipo il Festival dell'Unità, queste cose qua, dove allora noi partimmo con questa Renault 9 di Stefano Scricciolo, una Renault 9 rossa, io, Michele Di Trani e Paolo Cateni, e andammo appunto a Montecchio Emilia. Eravamo partiti con questa intenzione di farci fare la maglietta da Sergio Staino, fare il disegno, insomma, del manifesto. Ma senza averlo contattato? No, assolutamente. Così. Noi siamo andati così all'avventura. Beh, insomma, alla fine ci siamo riusciti in un tovagliolino di carta della festa dello gnocco fritto. Lucia, io l'ho visto questo tovagliolino, perché Roberto ce l'ha esposto. Sì, ce l'ha in ufficio. Sì, io l'ho visto. C'ho ancora l'originale. E in questa tovaglietta, insomma, Michele c'aveva già dei rapporti, quindi insomma lo conosce. Però lui è andato lì, sai, dice: questi ragazzi stanno cercando di mettersi una cosa, questa festa. Dice: poi insomma, fargli due schizzi di questa cosa. E lui si mise lì con la sua capacità, la sua bravura. E fece il suo personaggio, Bobo, esatto, che principe. Segue i bambini, i suoi, e dice: tutti al gras, tutti alla festa dei giovani. E poi si vede Bobo che insegue affaticato. I bambini affaticato. Aspettatemi, ecco, sono giovane anch'io. Ecco, ma questo, così di getto. E noi, come dire, alla fine prendemmo questo prezioso tovagliolino e ce lo siamo portati a casa, e da lì abbiamo iniziato. È stato il primo manifesto, è stata la maglietta, è stata la prima tessera dell'anno 87 del Gras, insomma è stato il simbolo che vi ha contraddistinto e che ancora oggi io ricollego mentalmente distinto al Gras. Sì, sì, appunto, ancora ci sono negli armadi le magliette che molti dei coetanei nostri detengono per ricordo, insomma. Beh, io direi che questo... Ah, se ci vuoi raccontare anche il ritorno. il ritorno, insomma, dopo lo gnocco fritto... È andata, insomma, l'autostrada era... C'erano tante luci che bellissimo. È risaputo che il fritto la sera si ripropone. Però siamo tornati a casa. Che è molto buon importante. Ascolto, buona digestione. Se ristretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina. Il lavoro a me mi stende e per giunta non mi rende. Per comprarmi una maglietta ho venduto la mia lambretta, ma quando prendo lo stipendio i gelati me lo spendo. I gelati sono buoni ma costano milioni. I gelati sono buoni ma costano milioni. I gelati sono buoni ma costano milioni. La fatica è in officina. gelati. Non è incredibile. Gelati degli Schiantos. Quanto costavano i gelati all'epoca? Fammi fare tutto il mio discorso che me lo sono preparato, Marzi. Questo era appunto Gelati dal disco Chinotto del 79 degli Schiantos. Gli Schiantos che sono il gruppo del compianto Roberto Fricantoni. Allora, abbiamo detto testè pubblicato sulla pagina Facebook una foto dove Fricantoni è insieme agli amici del Grass e quindi... Quindi pubblico fine. Pubblico fine, esatto. Quindi in questa foto, Roberto, intanto perché Fricantoni era a Foiano al Grass, alla festa del Grass? Ma perché appunto tra i temi teatrali, appunto quell'anno dell'87, abbiamo avuto tra gli ospiti anche Roberto Fricantoni, detto anche Astro Vitelli, Beppe Starnazza. Il cantante degli Schiantos. Sì, perché aveva più nomi. Cioè sì, più, sì, lui aveva varie personalità. Appunto, hai appena detto che poi, insomma, lui a febbraio del 2014 poi sì, ci ha lasciato. Ma, insomma, quell'anno però lui era lì e cioè abbiamo questa bellissima foto con i nostri amici del gruppo dei De Corto di Arezzo. E appunto lui era ospite in questa serata di poesia demenziale. Ecco, anche questo è molto bello. Spiegaci perché. Sì, sì, lui appunto venne a Foiano, fece questo spettacolo insieme a loro e poi abbiamo fatto questa, lui, per chi può vederlo in internet, insomma lui c'è questa bellissima foto con la maglietta del Grass, esatto, dove insomma si vedono lì ritratti anche l'allora il presidente Paolo Cateni. Infatti. Che è stato, insomma, voglio dire, perché poi il Grass ha, come dire, ha lanciato varie personalità. Perché tu sei diventato assessore. Sì, sì, sì, sì. Paolo Cateni è diventato sindaco. Sindaco Stefano Scricciola, che lui ha fatto l'assessore in tempi recenti. Poi c'era Catiuscia Fei, anche lei è stata assessore, ora è vice direttore di una importante associazione di categoria. Insomma, diciamo che poi, insomma, alla fine questi ragazzi del Viale... È stata un po' anche una fucina. Questi ragazzi del Viale si sono fatti valere. Viale, vi volevo fare la battuta, non mi è riuscita, scusa. Ti vedo che cresci. Oggi sera di più. Avevate anche una sede ufficiale. Sì, noi avevamo una sede che era in piazza Fra Benedetto, dove, insomma... diciamo, allora c'erano degli uffici, avevamo proprio una sede nostra dove lì facevamo le riunioni, facevamo i direttivi, avevamo tutti i nostri materiali appesi alle pareti, insomma, perché poi c'erano mi ricordo, forse in una foto si vede anche una scritta Grass scolpita da Idrio Calvani, sì, sul legno. Sì, sì, la ritroveremo e la pubblicheremo. Ma, insomma, ecco, voglio dire, per dire, c'erano, ognuno partecipava con la sua espressività, con la sua arte alla vita dell'associazione. L'organizzazione degli eventi vi impegnava tutto l'anno? Era un lavoro costante oppure, diciamo, c'erano dei periodi in cui potevate anche un po' tirare il fiato? No, l'associazione era viva tutto l'anno e aveva la sua attività di programmazione, ma insomma il grosso era la festa estiva, poi il carnevale, insomma. Ecco, però insomma, quindi devo dire era anche un momento forte di aggregazione per questi. Sì, sì, ma sai, insomma, a 20 anni, 22, non è che si andava a letto come non ora. Ci fa paura niente, cioè, a 20 anni, perché ora già è tardi, vedi, inizia a essere già 20 alle 11. Io sono già fuori tempo, insomma. Vabbè. Allora, parlando di grafica, volevo rammentare. Senti che passaggio, vai, che volo pindarico che faccio. Il nostro canale YouTube, mamma, sul quale potete anche vedere fisicamente chi vi sta parlando. Io no, Paolo, non troppo, grazie. E ringraziamo Paolo che sta facendo le riprese, grazie. Il nostro Paolo. Canale YouTube che si chiama Piazza Alta. Bravo. E colgo l'occasione anche per salutare alcune persone. Virginia, Chiara, Romina, Linda, Rachele, Virginia, Barbara. E un particolare saluto a Andrea, Erika e a una persona che è appena arrivata su questo pianeta. Sofia, quante dovrai passarne, Sofia? Buon ascolto dal 1976. Oh, Simple Minds, caro il mio Marsi. Don't con... you no, New Gold Dream. Però va bene. Questo è un album del 1982. Sono scozzesi e io scozzesi conosco solo Marvel. Però involontariamente anche questa volta Simone ha colpito nel segno, perché muse ispiratrici o muse ispiratrici di Roberto Menchetti, nostro ospite. Perché si è, perché è vero. Perché diciamo muse, Roberto, ispiratrici? No, oh, vabbè. Vabbè, per modo di dire, ovviamente. Sì, sì, no, poi insomma, passando il pezzo, è venuto in mente che in quegli anni nell'87, appunto, che noi eravamo stati in agosto al mare in campeggio in Spagna con Paolo Cateni ed altri amici, il Ciucca ed altri, e appunto a Valencia siamo andati a vedere i Simple Mind e di ritorno insomma a settembre abbiamo fatto la prima festa del Grass, ecco, Simple Mind ispiratori dei Grass. Attenti alla musica che ascoltate, questo io lo vado dicendo da due anni a questa parte, quindi magari perché potrebbe anche nascere delle cose. Oh, ma ora invece, beh, quando voglio fare il serio già non mi piace il giudizio. No, ma mi fa ridere, sei simpatico. Abbiamo accennato a un personaggio che ha fatto comunque la storia di questo paese, che purtroppo non è più tra noi, e che è Michele Di Trani. Michele Di Trani, che è stato, diciamo, uno dei motivatori e comunque dei sostenitori del Grass per farlo partire. Allora era assessore alla cultura e, come dicevi appunto a inizio puntata, ha creduto molto nel vostro progetto. Qui sul nostro tavolo, per esempio, abbiamo un libro che è Segnali di Fumo, anche questo sponsorizzato tra virgolette dal comune, quindi dall'assessore. Se vuoi darci un ricordo appunto di Michele e secondo te l'importanza che ha avuto Michele Di Trani per il nostro paese. Ma Michele Di Trani, secondo me, ha dato una svolta, cioè, proprio alle politiche culturali del paese. Lui veniva da Pisticci, quindi sì, insomma, veniva dal sud, lui era un medico. È appena laureato, insomma, faceva, non so per quale motivo fosse capitato da queste parti, ma probabilmente per motivi di lavoro. Lui si occupava della medicina del lavoro, quindi insomma anche un tema caldo. Allora c'era la direttissima, molti incidenti sul lavoro, insomma lui era uno di quelli sempre in prima linea, era uno con tante idee, veramente era una persona avanti. E lui appunto nelle politiche culturali di quell'anno per il comune di Fognana della Chiana ha rilanciato le collane editoriali, insomma, sì, i libri, la maggior parte dei libri che si vedono, insomma, ecco, è roba sua. Sul Carnevale, sull'Archivio del Furia, lui insieme al fotoclub, insomma, ritirò fuori le lastre fotografiche. Loro addirittura fecero una mostra al Circo a Milano con un'altra pubblicazione bellissima che ora è andata esaurita, che non si trova più, ma insomma, voglio dire, come L'Indiano Eterno con Sergio Susani, questa raccolta di lavori e questa mostra sugli indiani d'America, insomma, era veramente, veramente avanti. E appunto, tra le tante cose che faceva, ci fu anche quella, come dire, di seminare, come dire, ecco, e poi diciamo questo, e di aprirsi al rapporto con i giovani, insomma, ecco, questo probabilmente per quello che ci riguarda è la storia nostra. Per molti altri sicuramente ci saranno state altre storie. Io credo che, insomma, ecco, che, come dire, lo dicevi una puntata. Sì, infatti lo dicevamo fuori onda. Ecco, probabilmente, diciamo, anche per il successo che avete avuto, l'appoggio di una mente aperta e dell'amministrazione è stato, diciamo, il terreno fertile anche per fare quello che avete fatto. Ma sì, perché noi poi, cioè, chi è che pensava che l'amministrazione comunale, il comune, cioè, ti dasse, come dire, cioè, noi eravamo lì, cioè, nel senso che, boh, cioè, ti stupivi del fatto che ci fossero delle persone che ti dassero che spazio, esatto, che ti ascoltavano, nel senso, non era così prima, cioè, ora magari, ora forse oggi lo diamo un po' più per scontato, sì, ma prima, insomma, non era, ora magari le vai a cercare i giovani, perché insomma, però allora si era tutti un po', come dire, a bighellonare per il viale, quindi, cioè, il fatto che tu potessi avere una responsabilità del tipo di poter proporre alla comunità un qualcosa, insomma, ti faceva sentire importante, insomma, certo. Quindi da lì veniva fuori anche lo stimolo a essere grandi e quindi è responsabile e capace a tirar fuori qualcosa senza fare brutte figure, insomma. Senti, perché mi sembra che sia stato anche un po' un collante della comunità, nel senso la comunità foianese ha recepito diciamo quello che è il progetto, quello che avete fatto in quel periodo per tutte le fasce di età, o diciamo è stato un qualche cosa che ha interessato soltanto la fascia giovanile? Beh, c'era anche chi ci guardava con sospetto, chi ci additava di essere parte di una certa parte politica. Ovviamente poi, insomma, lì non è che si stava a guardare uno, però, insomma, voglio dire, cioè, insomma, molti erano da una certa parte, insomma. Anche perché proprio statisticamente il paese, diciamo, anche se li vogliamo contare uno a uno, una certa parte era predominante in quel momento. Sì, sì, però come dire, non c'erano comunque pregiudiziali di nessun tipo. I temi erano questi, chi ci stava su quei temi era benvenuto, insomma, quindi non è che fosse... Poi magari c'era anche chi ci speculava, eravamo quelli additati, quelli dei rossi invece che dei bianchi. Però voglio dire, ovviamente poi la storia, come dire, siamo andati a fare gli assessori per allora c'era il PC. Beh, cioè, immagino, voglio dire, tanto è normale. Però quello che ti volevo chiedere io era questo, appunto. Ci sono stati 2 o 3 anni importanti, 87-90, diciamo su per giù, il periodo importante, correggimi se sbaglio. Dopodiché la cosa è terminata, ma è terminata improvvisamente oppure è scemata in qualche anno e perché? No, vabbè, è scemata in qualche anno perché probabilmente noi il limite nostro è di non essere stati capaci di creare insomma un ricambio adeguato, nel senso che poi noi abbiamo ovviamente per motivi di opportunità facevamo un'altra cosa nel 90 e abbiamo lasciato, insomma, quindi ha lasciato tutto il gruppo fondatore, il gruppo storico, insomma, quindi poi è andata intorno agli anni 90, è andata sempre di più fino al fatto che poi si è sciolta, insomma. Ok, io direi che possiamo andare con l'ultimo brano, per poi che c'ho da fare l'ultima domanda, quella più intelligente. Due domande intelligenti, preparati stessa, Roberto, sarà la stessa. Le verrà, io ne ho già sete, le verrà, nel tempo che verrà, e scenderà giù per la collina, da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove, e piove su noi che non ci incontriamo mai. Lei verrà, ma d'estate le verrà, perché aspetto già, scenderà. Amore che non dai più sogno, amore che non dà. Io ne ho già sette, scenderà. Go! amore che non dà bisogno. Amore che non dà avrò. Amore che non dà. Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Un doveroso omaggio a un artista che ci ha lasciato questa settimana, nei giorni scorsi, Pino Mango. Questa era una canzone del 1986, Lei verrà, e ci sembrava giusto ricordarlo anche a noi nel nostro piccolo. Ma adesso veniamo alle domande intelligenti. Potremmo fare la rubrica di ultimo intervento, le domande intelligenti. Sì, ma io le farei tutte dopo le 11. Cioè, le microfoni spenti. Inizia te, Marcello, stiamo parlando sempre con Roberto Menchetti del Grass. Siccome secondo me c'è un filo conduttore anche in tutte le nostre puntate che abbiamo fatto, abbiamo parlato di Foiano, dei giovani, delle aggregazioni, delle associazioni, eccetera. E secondo me noi stiamo cominciando ad avere anche un patrimonio di informazioni, di esperienze e di testimonianze. Guarda, la premessa è fantastica. Ma finisce qui, Prego, puoi fare la domanda. No, io mi domando, volevo domandare a Roberto, se secondo lui un'esperienza bella, pregnante e coinvolgente come quella del Grass è oggi riproponibile, se ci potrebbe essere, se fosse auspicabile, se ci potesse essere le condizioni per poter avere un'esperienza positiva come quella che avete vissuto voi. Ma sai, ogni epoca è una storia a sé. Devo dire che insomma nell'amministrazione comunale c'è un bel gruppo di giovani, nel carnevale c'è un bel gruppo di giovani, nei vari cantieri alcuni sì, la maggior parte, altri stentano un po', ma insomma Bombolo no. Bombolo. Ragazzi, no, infatti volevo, pensavo dicesse Bombolo un po' meno giovani effettivamente ormai. Però insomma voglio dire, ma si diceva prima, Foiano c'ha una storia insomma nell'associazionismo, e poi certo i tempi cambiano, forse prima c'era la panchina del viale, ora ci sono i social network, questo non vuol dire che vanno demonizzati, credo che gli vada data la giusta importanza, ma insomma il rapporto umano credo che sia alla base fondamentale per, come dire, per una convivenza migliore, specialmente in momenti come questi. Ritrovarsi insieme e fare delle cose penso che aiuti anche a superare, come dire, i cattivi pensieri che la società di oggi ci propone, insomma. Io su questo sono totalmente d'accordo. Se vedi Roberto che Marci mi guarda con un sorriso, perché era la domanda che volevo fare io e lui lo sapeva. Scusa, e quindi siamo in due, ma non possiamo mica, cioè, la domanda è intelligente, però, mi fa pensare che la crei io. Assolutamente era giusto, bene. Era giusto terminare così. Cioè la risposta era idiota. No, la risposta era ancora più intelligente, ma non era difficile farla più intelligente, perché quando le fa Marcello, no, a parte guarda, su questa cosa delle domande intelligenti lasciamo perdere. Entriamo in un ginepraio, c'è tutto un discorso, c'ho sedute dall'analista per questo argomento. Guarda, allora, dunque, sto facendo dei corsi teatrali per far sembrare intelligente. Rilassati, soffia, respira, bravo. Allora, siamo arrivati alla fine, vola, quando gli argomenti sono interessanti l'ora vola. Io vuoi fare un'altra domanda? Come ti sei trovato? Questa era la domanda che mi ero preparato. No, battute, spero, noi siamo stati contenti. No, io devo dire che mi sono trovato bene, anche perché io in questa radio, insomma, da ragazzo ci sono cresciuto, quindi anche questa è un pezzo di Foiano, è un patrimonio importante. Scommetto che era l'anno 1986. No, era comunque io ero molto piccolo. Però credo che poi la passione di Paolo che lui ci mette porti ancora di più, insomma, a sviluppare questo progetto e ritorni come è, insomma, è un patrimonio che non va assolutamente perduto, anzi la radio della stiamo radio facendo di tutto per portarla avanti, è uno dei tanti patrimoni appunto del nostro paese. E sono settimane abbiamo notato, scusa Marzio, lo so, volevi dire una cosa intelligente, vedo l'occhio però, abbiamo notato che praticamente un po' tutti quelli che sono stati protagonisti di quegli anni lì, 70 80 90, quando tornano qua tornano appunto perché comunque hanno fatto un passaggio comunque anche dentro questa radio. E sì, sì, no, io ecco, insomma, me la ricordo come anche questa un'esperienza di crescita, perché anche qui c'era lo spazio per i più giovani. E io mi ricordo, avevo le chiavi della radio, avrò avuto 13-14 anni, io avevo le chiavi della radio, perché la mattina venivo prima della scuola a cambiare il Revox, a girare la bobina, e poi dopo alle 7:30, alle 8 poi andavo a scuola, che allora non era il digitale come adesso, ma c'erano le bobine, certo, dei che poi finivano, insomma. quindi, beh, io ragazzi, qualche ragazzotto ci voleva che andasse a girarli. Io su con questo no, vuoi dire qualcosa? Mi sentirei soltanto di dire sigla, ecco, no. Buon ascolto. Allora, l'appuntamento è giovedì prossimo. Grazie ancora a Roberto per essere stato con noi a raccontarci del Grass. Ci ritroveremo per qualche, magari per il ricordo appunto anche di Michele Di Trani, chissà. E ci sentiamo giovedì prossimo. Seguiteci su Facebook, perché poi abbiamo anche degli appuntamenti su Facebook. Un lunedì da Leone e gli appuntamenti del fine settimana che cura Simone, il quale risalutiamo. Ciao a tutti. Ciao. E poi il canale YouTube, e poi il podcast, tante cose, Marzio. Ci verremo a noi. Buon ascolto sulle F frequenze. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marzi. Alla parte tecnica, regia Simone. One. Ai filmati Paolo. Paolo.